I programmi proseguiranno ora con la messa in onda di Pow & Mall, un programma di intrattenimento musicale dedicato all'emergente fenomeno della micro music italiana. Da tutta la redazione, buon ascolto! ランドオブジャイアンツ、世界に羽ばたく全日本プロレスリング株式会社。年末恒例の世界最強タッグ決定リーグ戦はとんでもない怪物。以上プロレスニュースお伝えいたしました。ありがとう。 Vampo d'un malefizio, di ritrovarsi tra l'arruffio tempestoso di capelli scatenati nella confusione ritmata d'un aspro e nitido sudore, e di fronte a voi scorgere a intermittenza, come i corpi che si dimenano davanti a voi permettono, un altare e una figura come di maga antica in sacerdozio d'abominevoli sortilegi. Giovani e giovanissime, tutti convocati nel suo presagio, una moltitudine intrepida aspettazione d'essere trapunta da suoni aspri, vividi e vivaci. Non mostrate la reverenziale fifarella che in questi casi conviene agli estranei, e fate piuttosto uso del coraggio che instrada gli audaci e detergete l'anima dalle ultime perplessità. Siete nel mezzo di un microparty. Thank you. famosa e mitica storia della micro music. Frammenti. Micromusicisti, ai inizi degli anni 90, ben pochi sapevano gran poco. Si sapeva che non si trattava di un gruppo organizzato. Qualcuno parlava di un individuo isolato che attraverso una misteriosissima patogenesi meiotica si sarebbe moltiplicato a dismisura. Il fenomeno sarebbe stato notato soprattutto nei bassi fondi delle grandi città: Boston, Chicago, Baltimora, Londra, Madrid. Consultando la documentazione dell'epoca, suscita enorme inquietudine la mancanza di curiosità sul fenomeno da parte di tutto il mondo. E infatti, le prime dicerie iniziano a circolare verso la fine degli anni 90. Perché questo interesse tardivo? Eric Hobsbawm è uno dei pochissimi che si è interessato al fenomeno. Egli ha tentato di rispondere a questo quesito ne Il secolo breve, parlandone però in termini quantomeno criptici. Da Il secolo breve di Eric Hobsbawm. Hanno avuto i primi suoni in una stanza inclinata. E gli è parsa una scheggia di verità ghiacciata. Dalle slot ne esce la loro anima infelice. Dente d'oro della musica si spacca alla radice. Fotografia ed estetica. Gli occhi di chi guarda, educati dagli occhi di chi fotografa. State fermi, non muovetevi, datevi un contegno. Ragazza si comporta come una asse di legno. Ragazza cerca di gestire l'universo con la cosmesi. La mia immaginazione la priva degli occhiali costosi oscurati. Osservo i tratti dei volti immaginando capelli rapati. Vestiti depauperati da manicoli che rendono simili ad abeti addobbati. Orpelli che pendono da entrambi i lati. Ilari noi, con una punta di disprezzo. Ci ricordiamo i tratti del volto. Andiamo oltre agli occhiali, il pizzetto, il berretto. Indovina chi? Forza 4, gira la moda. Una ruota con 4 teste di ragazze diverse. 4 teste di ragazze diverse. 8 cosce di ragazze diverse. Gira la ruota e trova nuove combinazioni. Crea nuove divisioni estetiche, ovvero stili. Tutto questo per dare l'impressione che la varietà esista. Ma si tratta pur sempre di una ruota che mischia le classiche 4 caratteristiche catturate nel tempo dalle macchine fotografiche. Ragazze fiche. O forse sono io che tengo negli occhi quelle fotografie che fin da piccolo mi sono state mostrate. Guardate le persone e non vi concentrate. Troppa fatica a scremare la cultura delle immagini che impedisce di capire cosa veramente vi piace guardare. Gradite una persona oltre un paesaggio, nella misura in cui tale persona e tale paesaggio assomigliano all'ideale di persona e paesaggio che avete dentro. Tutto il resto è merda, è indifferente. A volte non lo notate neanche e non avete neanche il coraggio di risalire la corrente per giungere all'origine del vostro gusto estetico. Per carità, potreste scoprire che vi piacciono irrimediabilmente le ragazze brutte. Che figura ci fareste coi vostri amici se sapessero che avete un'insana perversione per i tagli, per le macchie e le ossa che spuntano? Sarà un caso, ma i vostri gusti combaciano con i canoni estetici che nascono e cambiano quando i canoni estetici cambiano. Non importa se discutere dei gusti altrui sia inutile, anche perché trovo oltraggioso che qualcuno ritenga i miei gusti una autosuggestione che serve solo a dare contro i gusti delle altre persone. Forse se mi facessi un tatuaggio con scritto osservazione capireste che cosa faccio tutti i giorni. Io sì, perché voi capite solo i tatuaggi, gli orecchini, i piercing, gli occhiali, le pettinature, i vestiti, i siti internet, le fotografie ritoccate, le fotografie che mostrano solo una parte di quello che c'è da vedere, le copertine, i giornali, i disegni un po' grafici perché il tratto ormai è scomodo, i disegni sporchi apposta perché per farvi capire che qualcosa è estemporaneo ed improvvisato bisogna scrivervelo sotto a caratteri totalitari. Capite i film se qualcuno che vi sta simpatico ve li spiega, altrimenti non vale nemmeno la pena di sforzarsi di stare 2 ore seduti in poltrona perché, Dio mio, potreste vedere qualcosa che non vi piace. La soluzione per voi? Il film in bianco e bianco muto, il giornale di una pagina vuoto, un lavoro serio di responsabilità e fatica, pasta e fagioli, carne alla brace, la canzone che stavate ascoltando che ad un tratto tace.

di recensioni che non mi piacciono, perché alla fine parlano più di chi fa la recensione che del disco. Sì, era molto personale, diciamo. E paragonavano la vostra musica a fasci di luce in ambientazioni plutoniane. Esatto, sì. Allora, direi che il tipo che ha scritto la recensione è rimasto molto flashato dalla copertina della vostra cassetta. Sì, probabilmente sono andato un po' più lì che sui pezzi, però... La musica è molto... cioè, guardando la cassetta e tra l'altro i commenti alla recensione, la maggior parte sono del tipo wow, una cassetta. Ma comunque, la copertina in realtà non c'entra niente con la musica. No, cioè era... diciamo che il mondo... Non so, anche la compilation che è uscita per Toulouse Track recentemente, la BitBit. Esatto, BitBit. Tutti gli altri, diciamo, artisti sono più sicuramente legati proprio a quei suoni, all'8-bit. Quella di una copertina presa da uno Spectrum, da un gioco di uno Spectrum. Mentre noi, sinceramente, cioè, di 8-bit non sappiamo neanche come fare a pimpare un Atari o qualsiasi cosa del genere. Noi suoniamo pianole preconfezionate, e però vabbè, comunque l'immaginario super già quello, i rumori delle navicelle spaziali, così ci può stare, insomma, sì. Quindi voi non suonate né Game Boy né fate bending? No, noi suoniamo principalmente Casio Tones, proprio come si trovano dal mercatino, in qualsiasi condizione essi siano. Infatti spesso abbiamo dei toni che mancano, eccetera. E poi abbiamo una drum machine, anche quella trovata al mercatino, una Roland senza nessuna modifica, e un synth. Per il resto non sappiamo, cioè non saremmo capaci, piacerebbe bendare, fare cose, però non ne siamo capaci. Bellissimo che ormai non si va più nei negozi di musica a comprare gli strumenti, si va ai mercatini e si suona l'antiquariato. Sì, esatto, poi appunto nelle condizioni in cui si trova, e forse quella è la cosa più bella, perché due strumenti uguali non hanno mai lo stesso suono, che appena l'accendi può uscire fuori qualsiasi cosa, insomma. Poi anche un'opera di carità verso queste cose che in molti hanno relegato nelle cantine, nelle soffitte, invece noi le ritiriamo fuori, perché comunque, cioè, hanno diritto di vivere se ancora c'hanno i circuiti che funzionano, se ancora la lucina rossa si accende. Secondo me hanno diritto, come tutti gli altri strumenti, di essere suonati. Beh, direi che abbiamo la nostra proposta di legge per risolvere il problema dello smaltimento dei rifiuti speciali. Dagli altri mi aspetto che gli si rompa uno strumento, in modo che io possa raccoglierlo e tenermelo. Vado pazzo per i pezzi della batteria rotti. questa qui, ma io sono promotore, noi ci siamo promotori, prima persona di questa cosa, abbiamo fatto giri di tutte le soffitte dei nostri amici, prendendo tutto quello che era rimasto lì da secoli, che va da console a videogame, a pianole, a organi, qualsiasi cosa del genere, e cerchiamo di metterlo insieme e vedere cosa esce fuori, insomma. Vostro setup tipo? Ah, noi suoniamo, cioè abbiamo proprio cose ridotte all'osso, abbiamo un Zieltone, la Casio, quella storica, piccolina, che era anche calcolatrice, un'altra Casio MT40. La Casio Tone è quella di cui è stata fatta anche una compilation tributo Tone War? Sì, esattamente, okay. Quella piccolina, piccola con i tastini quadrati. Sì. Abbiamo una Roland TR-505, una drum machine, e un Alesis Micron, che è il sintetizzatore, la cosa un po' più tecnologica che abbiamo. E suoniamo solo con questo. Abbiamo anche un'altra Casio un po' più grossa, che però suona quando pare a lei, e ci ha lasciato a piedi varie volte. Una volta avevamo solo quella, e perciò insomma ci siamo arrangiati con delle cose a cappella e poi sì, no, per il resto tutte le altre per adesso hanno sempre funzionato a dovere, insomma. Com'è che a te e a Alessandro, che venite dall'esperienza con un altro gruppo un po' più, come dire, normale, con strumenti veri, chitarra, basso e batteria, vi siete dati a questo, vorrei definirlo, non lo so, non saprei neanche bene come definirlo, mi piacerebbe, lo definirei a questo divertimento. Allora, il fatto è che noi abitiamo in un paese piccolo, in Umbria, che è Umbertide, dove praticamente c'è sempre stata una certa scena anche dell'indie rock, ma portato da fuori, cioè c'è il nostro amico Capoccia di Truto Track, Luca Benni, che ha sempre portato tanti gruppi, ha sempre proposto e spinto al massimo appunto la musica di nicchia, però non c'è mai stato un gruppo praticamente, e io, Alessandro e il batterista dell'altro gruppo, Axel, ci eravamo trovati, a parte per amicizie, parentele varie, però perché eravamo praticamente gli unici a suonare tre strumenti, a suonare un certo tipo di musica che ci piaceva. Poi praticamente il batterista ha deciso di andare via a Londra e non abbiamo trovato un rimpiazzo, perciò abbiamo detto tanto le chitarre e il basso con sotto niente, non si suonano, allora suoniamo le pianole, che tanto almeno la batteria, insomma, non c'è bisogno che ci sia una persona che la suoni, insomma, qualcuno la fa suonare automaticamente, e dunque abbiamo cominciato così, proprio per necessità, insomma, più che per un'idea precisa all'inizio. Chip drop, Esistono ancora o? Sì, Dumo esistono, anzi sono, abbiamo registrato un disco a inizio mese che uscirà a settembre, dovrebbe uscire, perché il batterista è tornato e anzi adesso ripartirà di nuovo, però nel frattempo siamo riusciti a registrare un disco tra virgolette lungo, che poi è brevissimo, perché avevamo cosa vuol dire lungo e brevissimo? Che c'è un disco lungo perché ha 9 pezzi, però in realtà dura 16 minuti e, però avevamo insomma molto bisogno di risuonare anche insieme noi tre con strumenti classici e allora abbiamo voluto registrare questo disco. Adesso vedremo cosa succederà, visto che se ne parte di nuovo e appunto noi non abbiamo un altro batterista nel raggio di 150 chilometri. Competizione testosteronica fra batteristi. È straziante vedere prima dei concerti questi soggetti che fanno esercizi per confrontarsi nell'ennesimo scontro a metà fra palestra e finezza. Alcuni di allora, dove eravamo rimasti? Ai Doom. Esattamente. Che esistono ancora, usciranno a breve sempre per Tolosa la track, immagino. Sì, e dobbiamo, forse si amplierà un po' la cosa, però per adesso sicuramente con Tolosa track. In che senso si amplierà la cosa? Perché noi con l'EP che abbiamo fatto precedentemente di 3 anni fa era stato coprodotto da 5 etichette, però comunque sono tutte persone con cui siamo molto amici eccetera, dunque per adesso abbiamo dovuto fare le cose molto in fretta, però penso che insomma sentiremo anche queste persone che ci hanno sempre dato una mano e forse dunque il roster di etichette si amplierà per fare magari una tiratura maggiore o una versione vinilica o una versione cassettica pure, non so. Cassettica, io voto per il cassettica. No, cassettica penso sia una cosa lasciata per i cart, però vinilica probabile. Ma secondo me andrebbe tantissimo, cioè ormai tutti fanno il vinile. La cassettina secondo me è la svolta. Sì, però abbiamo avuto la cassettina, ci ha portato anche dei problemi, perché la cassettina è la svolta, ma la DHL è spesso traditrice. We'll be right back. pacco di cassettine che dovrebbero essere la cosa più sul mercato del mondo, l'abbiamo pagato come un triplo CD con Digipack, praticamente, però poi per fortuna la cosa si è risolta. La scelta, diciamo, economica ma anche stilosa soprattutto, e però è uscito fuori che il tipo che ci ha mandato questo scatolone di cassette, nastro tagliato a mano e tutto, ha fatto casino con ADHL, che ci ha accreditato una sovrattassa di trasporto imbarazzante quando noi avevamo già pagato tutto via internet. Vabbè, ma è stato un problema di DHL. Sì, ma si è protratto per lungo tempo. Oh, oddio. Come quando hai a che fare con la telecom, che ti caricano bollette su numeri che tu non hai nemmeno, e poi devi stare in ballo anni per convincere che quel numero di cui stai pagando tu la bolletta non esiste. Cose dell'altro mondo. Vabbè, sì, che poi vabbè, è successa una cosa simile contemporaneamente a quella, ma vabbè, non c'entra niente. Perciò è stato un periodo travagliato. Aspetta, cioè? No, perché poi tutte le sfighe si raggruppano tutte insieme, si ritrovano e poi marciano sempre in compagnia. Niente, ma c'era arrivato questo scatolone di cassette con una sovrattassa che andava tipo tre volte tanto quello che avevamo già pagato e che era il prezzo comprensivo. E in quei giorni praticamente in cui stavo al telefono con la DHL sulle 2 ore e mezza, un genio di un paese vicino, staccando il contratto telefonico della propria azienda, non so bene che pelletteria, non lo so, ha staccato il mio telefono di casa, il suo è rimasto attivo, perciò io non riuscivo neanche più a parlare con la DHL. È stato bellissimo. Sì, era destino. Ma poi ti sei fatto riattivare il telefono o hai fatto prima traslocare? No, è successo, ho traslocato tra l'altro, sono venuto da Milano, però comunque no, il telefono poi è tornato al suo posto, come anche il discorso di DHL. Quindi tu ora non sei più a Perugia, ma sei a Milano? Io sì, abito, studio a Milano da 2 anni circa. Cosa studi? E abito qui, però vabbè, faccio per quanto possibile la spola per provare, suonare, eccetera. Stando quassù, soprattutto quando suoniamo fuori, suoniamo al nord, cioè non siamo mai scesi più giù di Roma. E allora, boh, vabbè, comunque abbiamo almeno una casa sempre libera per chi ci ospita, insomma, da questo punto di vista è meglio. Dal punto di vista delle prove meno, però comunque non siamo, diciamo, persone che hanno necessità proprio di provare in maniera, cioè i pezzi in maniera tecnica precisissima, siamo abbastanza bank. La vostra preparazione musicale, qualcuno di voi ha fatto scuola di musica, conservatorio? Ma no, assolutamente no. Cioè, io, se so dire, ho preso lezioni di chitarra un anno quando avevo 12 anni e poi non ho fatto nient'altro del genere. Stessa cosa Alessandro, siamo tutti autodidatti. bello comunque vedere come, cioè, almeno in Italia, una cosa nuova, chiamiamola così, come la, micro music, la 8 bit, a cui comunque vi avvicinate. Non sarete 8 bit, non fate bendaggi, non spippolate con il Game Boy. Però i suoni sono quelli che si sentono quando si ascolta micro music. Sì, sì, ma poi io comunque sono un patito dell'8-bit, del 4-bit e di tutto ciò che delle console pre-Super Nintendo. Anche in questo momento sono davanti alla mia nuova mensola dell'IKEA, dove ho messo tutte, cioè gran parte delle mie cassette e cartucce che ho qui a Milano. Compagno di vita, sì, è mio cugino. E tu, ma è tuo cugino davvero? Sì, siamo tutti imparentati lì perché. Ma perché piccolo siamo... paese? Sì, assolutamente. E siamo, magari anche perché lui che ha un paio d'anni in più, mi ha sempre passato tutta la musica che poi mi ha cresciuto dal punto di vista musicale. Ma ecco, parliamo del punto di vista musicale. Gruppi, un gruppo o un artista italiano che ti piace tantissimo è? Altro, se devo dirne uno, però ce ne sono altri due o tre perlomeno. L'immaginario, non necessariamente musicale, a cui pensate che la vostra musica si ispiri. Tendenzialmente quando si fa questa domanda a un micro musicista o risponde il cyberpunk o risponde i videogiochi, gli arcade anni 80. E noi invece in modo originale, diciamo, perché comunque non abbiamo mai negato che prima sono venute le chitarre e poi siamo passati delle pianole, perciò per noi, cioè, il nostro immaginario viene più che altro da gruppi della Polivini degli anni 90, quali Brave e American Football e cose anche precedenti, Jim Washington, Dunbed Polemo, Polaroid, cose di quel tipo, prettamente anni 90. Una canzone che è vostra, tra le quattro del vostro della vostra cassettina, qual è quella che vi piace di più, quella che piace di più a te? Allora, a me, vabbè, per motivi genealogici, no, vabbè, non so bene cosa ho detto, però comunque This is the Way of the Karateka, che è stata anche la prima che abbiamo registrato, quella lì sì, è un po' la mia preferita, e non so bene perché... Però cioè, è la prima che abbiamo fatto, che abbiamo scritto, tutto un po' da lì, perché avevamo la necessità di registrare questo pezzo per la compilation, e quella lì è stata la prima cosa che abbiamo scritto, insomma, ancora con, tra l'altro, l'unica che è sotto a un beat direttamente dalla Casio, attaccato quel jack che non cambia mai, è andato avanti quel beat all'infinito. Mall è appena finito. Va bene? Bene, vai. Ok, grazie. Grazie. Ciao, ciao. Ciao, buona serata, ciao, ciao. Thank you.